21:02, questo è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Continua la serata per quanto riguarda questo primo marzo e lo facciamo con prove tecniche di trasmissione con elettrodo in voce. Peraltro saremo l'ultimo spazio in diretta, ci sarà una replica di 25 O'Clock che tornerà qui negli studi il prossimo mercoledì. Consueto contenitore di ambient, industrial noise e sperimentazione in genere. E quindi comincio a fare un rapidissimo giro di saluti. Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico, Giorgio Falcone di Cure Head Key, Cecilia Miradoli di Pindar, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Doriana Panico a Taranto, Anna qui a Roma, Marco Milanesio di Disordine e produttore di tanti progetti, Valentina dall'Aquila, Maya e Nicola Locci, fedelissimi in Sardegna, Simone Scalisi di Audio Chaos, Massimo Latina, Orlando Furioso di Radio Poderosa che ci sta ascoltando dal Piemonte, Francesco Cornello, un saluto anche a lui. Saluto Tiziano Farinacci di Pi Greco, Antonio Zoviet, l'ottima industrial di Omicidio. Abbiamo il medico della peste e Giuseppe Verticchio di NIM, progetto romano, anche lui nell'ambito della sperimentazione. Invece noi cominciamo dalla Grecia, tirando in ballo Raffaele Pezzella, naturalmente, artista e produttore e anche ideatore di label. Lui sta a Napoli e tra le altre sue etichette c'è la Nespresso Sound Group Label, che ha ideato questa antologia dedicata alla Grecia, intitolata Anthology of Contemporary Music from Greece, Greek Music Survey. E allora ci ascoltiamo due passaggi e sarà un problema, come dire, andarsi un po' a tuffare nel greco, perché gli artisti hanno dei nomi leggermente complessi. Il primo in realtà dovrebbe essere un duo, e Pavlis Spavlakis insieme a Nicolas Malevitsis con una traccia dal nome Look, e poi Kostis Drigianadis con Lost Years and Beyond. Обязательно мы будем двинуть их. Также понадобится специальный... I primi 10 minuti dedicati alla scena greca sfruttando l'ennesima compilation di Raffaele Pezzella, questa Anthology of Contemporary Music from Greece. Due momenti però evidentemente assai diversi: la cadenza sepolcrale gotica, la classica mestizia che effettivamente, e questo lo diceva Antonio Zovet, si poteva anche trovare in certi primi lavori dei Current 93. E ciò riguardava il duo Epavlis Pavlakis e Nicholas Malevitsis. Un collage più visionario invece riguardava la traccia successiva, ossia Lost Years and Beyond, da parte di Kostis Drygianakis. Questo invece è più simile, se proprio vogliamo trovare un riferimento, per esempio a Narsi Witwund, effettivamente, o Zoviet France. Saluto intanto Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster, Wurnus Island, che ci sta ascoltando dal Piemonte. Moschita di Minamar, lei sta in Olanda, la salutiamo, fedelissimo ormai anche lei. Il 2022 è stato un anno anche questo particolarmente prolifico per Pezzella. Tante compilation riguardanti appunto la Grecia, il Sudafrica, l'America Latina e altri artisti. Pian pianino cercheremo di mandare il più possibile delle produzioni di questo grande menestrello della ricerca, il grande Raffaele Pezzella. Peraltro è uscito anche un album come Sonologist, il suo progetto musicale. Arriviamo a Giorgio Falcone, invece, e quindi ai Cure Head Key, all'esordio con questo bel lavoro, con una bellissima copertina, un uomo in un bosco nebbioso che cammina appunto nella nebbia, molto bella ed evocativa. Com'è bello il titolo, Into the Labyrinth. Tante sfaccettature compongono e arricchiscono questo album, sfaccettature rarefatte da un lato, ma anche elettronica e tribalismo dall'altro. E parte The Clouds Over the Bones, e la sesta traccia dal nome Oxygen. Saluto Olivier Ducasse di CCCCNCNCN, che ci hanno deliziato negli ultimi anni qui a Roma, soprattutto al Forte Prenestino. Grosso progetto, grossa realtà industrial. Eccolo qua, Oxygen, per quanto riguarda Curehead K. Thank you. oscuro ipnotico labirinto sonoro ideato, edificato da Curehead Kay in questo Into the Labyrinth. Artista, ricordo, abruzzese, ma che in questo momento ci sta ascoltando da Bologna. Mi piace il tribalismo elettronico con risvolti che ci dice sempre l'attento Anto Zoviet, ci manda Muslim Goes, Panzonic, aggiungo io anche con delle tracce vaghe di Kraut. Un Into the Labyrinth che ascolteremo anche il prossimo mercoledì. Un saluto dunque a Giorgio Falcone, visto live anche qui a Roma, e speriamo anche di rivederlo magari in futuro. Lo ricordiamo come spalla al Carillon del Dolore, vera e propria icona gothic. Dopo aver salutato Flavio Derbecante, anche lui in Noise Cluster, altro viaggio abbastanza lungo che ci porta in Islanda. E lo facciamo con Christopher Paul Vidarsson, attraverso il suo progetto dal nome Ashka. La sua seconda uscita la fa attraverso la Galat Corro, etichetta a me molto ma molto cara, la ricordiamo, fondata dagli House Arafna, o November Nomelet che dir si voglia. Il, diciamo, pregio per qualcuno, anche un limite di questa label, è che tutti i vari gruppi che appartengono a questa scuderia sono abbastanza somiglianti l'uno con l'altro, e quindi è un suono abbastanza riconoscibile tra minimal, dark wave e angst pop, e frangenti naturalmente industrial. Questo album si chiama Ut Vid Shanding Gra, e ci ascoltiamo il brano omonimo nella sua prima parte, e poi Likamar e Hordin. Thank you. suono tipico della Gadalcorro, ricordo questa etichetta fondata da Ása Rafna. Lui è islandese, si chiama Aska, questa Utvidshandingra. Glacialissima, minimal dark wave, plumbea e sofferta. E vi devo dire, ho avuto la fortuna di andare in Islanda tantissimi anni fa e ogni cosa che proviene da laggiù mi emoziona alquanto. Fortunatamente non ci sono soltanto i pur ottimi Sigur Rós e Björk da quelle parti, e di tanto in tanto escono fuori dei nomi molto interessanti, fra cui questo Aska. Ása Rafna e November Novelet, che sono gli stessi, non si sono mai esibiti dal vivo e diciamo sono rari anche in generale gli artisti di queste label che hanno diciamo l'iniziativa di esibirsi in un contesto live. Chissà se questo Aska cosa potrà fare nello svolgimento della sua carriera. Non dico vederlo in Italia perché la vedo difficile, ma mai dire mai. Intanto già metà programma è andato via e saluto anche Dez De Carlo from Boston e grande Filippo Paniche, artista storico della scena sperimentale italiana, che ci ascolteremo presto su questi schermi. Abbiamo iniziato con la Grecia e lì torniamo con ANFS, una delle sorprese dello scorso anno, un album dal nome Olatazzi. Anche per lui parecchi minuti a disposizione, ossia Ekapsa e Bukon. un qualcosa di epico, marziale, se non apocalittico, caratterizza il suono di INFS. Questa era Ola Tazzi, uscito nel 2022. Ci avrei visto molto bene un vocione stile Nordvarger a completare l'enfasi di questa proposta sonora proveniente dalla Grecia. Saluto Valentina all'Aquila. Abbiamo iniziato con progetti, direi, attuali, nuovi, recenti quantomeno, e adesso invece facciamo un profondo salto nel passato, un passato storico, e approdiamo dalle parti di Nocturnal Emissions, che di tanto in tanto ritiriamo fuori, la loro etichetta, credo la Sterile Records, che nel 1981 pubblicava questa cassetta dal nome Death Day. Mezz'ora di esibizione live, noi ce ne ascolteremo una parte, circa una decina di minuti.